Quanto se bella Roma quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto se bella Roma quando piove, quanto se bella Roma quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre sono tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone e so più vivo e so più buono. No, non te lascio mai, Roma capoccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame. Una carrozzella va con due stranieri, un rubivecchi te chiede un po' di stracci, li passeracci sono signori. Io ci sono nato Roma, io t'ho scoperta stamattina, io t'ho scoperta. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone e so più vivo e so più buono. No, non te lascio mai, Roma capoccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame.